della città universitaria. C'è una compagna di Sapienza Clandestina, ci senti? Sì, vi sento, mi sentite? Perfettamente. Va bene, allora buongiorno a tutti e tutte. Noi, insomma, come anticipavi anche tu, oggi faremo, come preannunciato, una passeggiata rumorosa, un po' le studentesse della Sapienza si riappropriano degli spazi di questo Ateneo, lo attraverseranno tutto, facoltà per facoltà, compresi anche i luoghi di incontro che in queste belle giornate di sole che ancora ci rimangono pullulano di gente, quindi la Minerva e il Pratone, per portare un po' i contenuti che ci preme di più urlare a gran voce verso questo grande appuntamento nazionale che sarà il corteo del 25 di questo sabato, che ricordo, insomma, anche se è già stato ricordato altre volte da questa radio, partirà alle 2, alle 14 del pomeriggio da Piazza della Repubblica. Ebbene, noi, insomma, stiamo, il nostro scopo, diciamo un po' i nostri obiettivi sono quelli di portare alla luce tutte le contraddizioni che all'interno di questo Ateneo riguardano, di più in un'ottica di genere, proprio le studentesse che vivono e attraversano questa università, non escludendo nessuna, quindi partendo da un discorso che riguarda più le studentesse delle triennali e le magistrali, ma anche le ricercatrici, con un occhio anche al futuro, quindi a quello che è e sarà il mondo del lavoro e le prospettive così infauste che un po' ci si affacciano per la fine del ciclo accademico. E quindi da questo punto di vista, insomma, ricorderemo sotto la facoltà di lettere, ma anche di scienze politiche e di fisica, che da questo punto di vista svolge un ruolo particolarmente importante, le ineguaglianze che ad esempio si vivono e le disparità nel frequentare facoltà umanistiche piuttosto che scientifiche. Questo a dire che in particolar modo molte studentesse gli viene un po' inculcato e affibbiato in un certo modo il ruolo di partecipanti e di studio più delle materie umanistiche e meno di quelle scientifiche, come se ciò che, insomma, caratterizza anche le abilità e le capacità delle donne, delle ragazze, delle più giovani, sia più in un campo umanistico e non in quello scientifico. Ovviamente questa che sembra, può sembrare, insomma, una banalità, una sciocchezza, purtroppo è proprio la realtà che ci si produce davanti agli occhi tutti i giorni. Basta attraversare, insomma, le facoltà di chimica piuttosto che di fisica, che di matematica, scienze naturali dentro all'Ateneo, e per lo più gli iscritti sono studenti, sono uomini, e questo anche perché le donne purtroppo imparano fin da piccole un po' a introiettare questo discorso, diciamo, a compartimenti stagni del ruolo che gli viene affibbiato, che è quello magari più di cura, più di una conoscenza ampia e generale, poco magari meno tecnica e tecnologica. Ovviamente noi vogliamo sfatare questa retorica, sottolineare che queste disuguaglianze e queste disparità sono ridicole, che sono frutto ovviamente di insomma delle precise intenzioni anche della società in senso più ampio, e poi delle istituzioni che la compongono, e anche dell'amministrazione universitaria, in questo caso dell'Ateneo più grande d'Europa. E per quanto riguarda invece poi il discorso sul lavoro, quindi sul futuro, sulle prospettive post diciamo quinquennio, intendendo il triennio più la magistrale, per quanto riguarda la ricerca e poi fuori dalle mura universitarie il lavoro, ci teniamo a sottolineare che la violenza che denunciamo, che cerchiamo di aggredire, non è soltanto la violenza, quella più diciamo buttata sui giornali, che è quella ovviamente del femminicidio e degli stupri, che però sono la punta tragica di un iceberg, dove sotto ci stanno le violenze che vengono invece portate avanti tutti i giorni dalle istituzioni. E proprio questa violenza delle istituzioni è più nascosta, da un certo punto di vista meno percepibile, che noi ci battiamo per scardinarla e poi andare a affrontare i grandi temi, quindi la disparità di salario sul lavoro, ad esempio tra uomini e donne, che è una roba che esiste ancora, cioè facciamo al 2018 e in effetti i salari percepiti dalle donne sono più bassi di quelli degli uomini. Il fatto che ad esempio per quanto riguarda i servizi o chi ha bisogno di una casa, ma anche i servizi sanitari o dei servizi di cura dei figli o anche degli anziani, perché insomma la cura non è solo delle madri ma anche delle figlie, sono, diciamo, lo Stato e la società in generale non dà nessun tipo di aiuto e nessun tipo di risposta, come se l'essere donne di fatto implica anche un lavoro di cura, che è un lavoro non retribuito, un lavoro non riconosciuto ed è a tutti gli effetti, insomma, un lavoro anche abbastanza pesante e tedioso. E quindi, insomma, questo è per fare un grande quadro, poi ci sarebbe tantissimo ancora di cui parlare. Oggi attraverseremo la Sapienza portando un po' tutti questi temi e cercando un po' di metterli in un quadro ampio che poi si ricollegherà anche a, insomma, altre iniziative che stiamo portando avanti dentro la città, non solo, ma anche come studentesse, per poi partecipare tutte in massa al corteo del 25. Tutto questo in una settimana dove invece l'istituzione Sapienza, quella con l'loghino carino e il colore bordeaux accattivante, organizza invece la giornata Sapienza in rosa, no? Come abbiamo visto ieri e come è stata contestata, tra l'altro, questa iniziativa. Prima, durante la trasmissione Sapienza Clandestina, ne abbiamo parlato brevemente, promettendo che appunto poi tramite la corrispondenza ci raccontate meglio che cosa è stata questa iniziativa allucinante della Sapienza Università di Roma ieri che si è svolta proprio in città universitaria. Sì, io insomma una cosa da dire particolarmente importante su questo: ieri appunto ricordavi te, la Sapienza è rosa, quindi la Sapienza che si ricopre, diciamo così, un po' del ruolo e dell'estetica della correttezza e delle pari opportunità nei confronti delle studentesse e delle donne tutte, veicolata dalla presenza della Questura di Roma come invitato ufficiale a sfilare per restare della Sapienza appunto, e a stare in conferenza, a tenere discorsi, non si sa con quale diritto, sulle donne. Ecco, io su questo vorrei dire una cosa: la politica a Roma in generale, perché poi l'amministrazione della Sapienza è un covo di processo decisionale e quindi fa politica, anche se non lo vuole ammettere, anche se sappiamo bene che il rettore Gaudio tante volte si è tirato indietro rispetto a questa sua responsabilità, è a tutti gli effetti un organo decisionale, dunque un organo politico anche pubblico e anche particolarmente significativo. Gaudio, così come la giunta comunale 5 Stelle, ma anche i sindaci prima del Raggi, in generale la politica dentro questa città viene regolata attraverso le forze dell'ordine, e questa non è un mistero più per nessuno, diciamo, cioè sono l'interlocutore che si trovano davanti chiunque voglia protestare dentro questa città, dentro l'Ateneo così come fuori, deve interfacciarsi innanzitutto con le forze dell'ordine, con la Questura, e non direttamente con la politica e chi la rappresenta, e quindi direttamente con chi andiamo ad aggredire, con chi andiamo a denunciare, con chi andiamo a protestare. E questo di ieri è semplicemente, diciamo, il momento più, possiamo dire, estetico, celebrativo di questa che però è una dinamica ormai consolidata dentro la città. È stata ovviamente, c'è stata una protesta delle studentesse e anche degli studenti contro questa ennesima sfilata della Sapienza che ciclicamente si fa vetrina invitando appunto i personaggi che meno hanno a che fare col mondo della formazione, come ad esempio la Questura di Roma, e a parlare di temi così delicati, che poi, diciamo, che le violenze perpetrate dalla polizia, oltre a quelle che dicevo prima delle istituzioni in generale dell'uomo sulla donna come possono essere meglio rappresentate se non proprio dalla questura. Quindi diciamo una bella contraddizione, un bello schiaffo in faccia a tutti quelli e tutte quelle che siamo per fortuna ancora tanti e tanti che protestano dentro gli spazi pubblici come ad esempio quello universitario. E per fortuna c'è stata una contestazione e continueremo a contestare, a portare avanti proteste ogni qualvolta l'amministrazione di questa università avrà queste belle pensate di invitare questi individui dentro la Sapienza. Anche perché, appunto, anche perché poi veniva annunciato dall'associazione di studenti, così chiamiamola così, che aveva organizzato questa iniziativa, la presenza del camion rosa della questura di Roma. Non so se è un bene o un male, ma il camion comunque era del solito azzurro blu che ben conosciamo della questura. E inoltre, ad esempio, venivano offerti servizi tipo il pap test, ma previa iscrizione e tesseramento all'associazione studentesca. Abbiamo raggiunto veramente dei limiti ieri con questa iniziativa inimmaginabili. Detto ciò, oggi è una giornata sicuramente più importante, perché invece sono le studentesse a riappropriarsi delle strade della città universitaria. Secondo me è un corteo molto interessante, perché nell'ambito del discorso di genere tratta dei temi non comunemente al centro, non comunemente riportati, no? Quelli sono quelli della condizione delle giovani studentesse, e quindi anche i punti che toccherete sono significativi per questo. Penso all'asilo, penso alla richiesta di un consultorio, penso alla presenza di donne iscritte in tutti quanti i corsi, e non soltanto singole eccellenze nazionali che possono rappresentare la donna nel mondo, ad esempio, delle scienze. E quindi su questo appunto chiediamo ancora di raggiungere a chi ci fosse in ascolto e voleva partecipare a questa passeggiata, ma che non sento ancora essere rumorosa, perché ancora non è partita. Vi state ancora raggruppando? Sì, ci stiamo ancora raggruppando. In questo momento siamo alla Minerva. Il rumore in realtà c'è, ma io mi sono allontanata per parlare però con voi. La prossima voi vogliamo sentire le voci delle studentesse, i cori. Allora vi chiamerò insomma in un secondo momento e vi farò sentire questo rumore. Quando il rumore è promesso. Prima di salutarvi volevo precisare una cosa anche rispetto a questa iniziativa di ieri, che innanzitutto le risposte più efficaci, oltre alle proteste, alle contestazioni, quando vengono questi personaggi, è la costruzione di momenti tipo quello di oggi, cioè momenti autonomi dalle scelte della controparte, che vengono prodotti dalla volontà di autodeterminarsi e di dire la propria, delle soggettività che più si vivono, disparità, disuguaglianze, come in questo caso le donne del corpo studentesco, possiamo dire così. E un'altra cosa importante da ricordare è la questura con i camion rosa. Non significa che se si tinge di rosa allora in quanto femminile è amica, è solidale, appoggia determinate istanze. Anzi, io ricorderei a questo titolo, e questo è un discorso che viene riportato anche all'interno diciamo della discussione di Non Una di Meno, che sarà anche in piazza, le donne delle istituzioni, che quindi perpetrano violenza a loro volta, non è che in quanto donne fanno parte insomma di un movimento solidale a queste istanze che noi portiamo in piazza e per le strade e per le università tutti i giorni. Io ricordo ad esempio le politiche che stanno portando avanti la sindaca Virginia Raggi, piuttosto che l'assessore alle politiche sociali Baldassarre, la Micheli, con ad esempio questa determina che ieri fra l'altro pure in mattinata è stata contestata proprio davanti all'assessorato da compagni, ma anche e soprattutto dalle occupanti delle case, per dire che mettere le persone sgomberate nei container con la scusa della fragilità è violenza delle donne sulle donne, niente di più, niente di meno. Quindi attenzione a non fare confusione, perché diciamo il sistema del potere, anche quello delle istituzioni di qualsiasi genere si tratti, è comunque in questo caso un nemico da individuare chiaramente, ecco, ci tenevo a dire questo. Assolutamente, così come non ha nessun senso il fatto che ieri prendesse parola la nuova dirigente del Commissario della Sapienza in quanto donna su questo tema, è come se fosse una garanzia di tutela e di sicurezza per le studentesse. Sappiamo benissimo che questo non è proprio, ricollegandoci al discorso che hai appena fatto. Quindi va bene. E se non volevi aggiungere niente prima dell'inizio del corteo, noi ci risentiamo fra un po' per raccontarci le azioni durante questo corteo, le rivendicazioni, i punti salienti del corteo che attraverserà la città universitaria, per poi sapere come sta andando e come è andata. Va bene, ci risentiamo dopo. Allora, buona passeggiata, ci risentiamo fra poco. Grazie. Grazie, ciao. Sono costretta a rimanere, devo lavorare, le vacanze ancora non ce l'ho. Per tirarmi un poco su, come metto piede in casa, spingo quel bottone che mi cambia la serata. Bla bla bla bla bla bla bla, c'è la TV che parla e urla che il mio vicino è sordo eppure insonne e non si dorme più. È notte tarda davvero dai, ora il silenzio dovrà calare ma c'è il solito ignoto